Sì, Sono le guarda, 5 meno 3. controlla l'orario, sì. Allora, ricominciamo passando la parola al professor Gianfranco Marrone. Ovviamente mi associo anche io ai ringraziamenti che non sono di rito, ma assolutamente sentiti, perché trovo questa un'iniziativa coraggiosa, come è stato detto, ma è anche, lasciatemelo dire, termine televisivo, non mi dispiace, straordinaria, ma ci sono dei casi in cui va bene anche al di fuori del contesto. Perché insomma non mi pare sia così facile avere questo genere di occasioni di dibattito in questa che è stata giustamente chiamata una relazione orizzontale. Ho preso parecchi appunti per le relazioni che mi hanno preceduto, mi scuso di non essere stato presente nelle sedute precedenti del convegno per ragioni di altri impegni. Quando si emigra, quando si fa il lavoro del chierico vagante, soprattutto abitando al sud, si mettono insieme sempre 3-4 cose diverse, non si parte mai per un motivo, non ci sono problemi personali, meglio così, ho detto solo sul divano. Allora, dunque, stavo dicendo che ho preso parecchi appunti, sia sul testo che è stato inviato dal gruppo Verlan, sia delle relazioni che ho ascoltato sinora, metterei da parte quello che sia poco interessante per voi sapere su che cosa sono d'accordo e su che cosa no, che lascia il tempo che trova, spero all'interno del mio discorso di riecheggiare alcune e non neanche troppo poche delle cose che sono state dette sinora, poi magari invece nel corso del dibattito, se ci sarà, torneremo su alcune delle cose che abbiamo sentito. Allora, io vorrei cominciare anch'io con una citazione dagli aforismi di Kafka, che vi leggo immediatamente. Negli uomini ci sono due peccati capitali, da cui derivano tutti gli altri, impazienza e negligenza. Per l'impazienza sono stati cacciati dal paradiso, per negligenza non vi ritornano. Ma forse c'è un solo peccato capitale, l'impazienza. Per l'impazienza sono stati cacciati, per l'impazienza non ritornano. Mi serve questa citazione da schermo, diciamo così, da scudo forse più che altro, alcune preoccupazioni che vedo quando sento parlare di nozioni e temi di evidente rilievo eppure certe volte frutto inevitabile di una impazienza a voler concludere, come diceva anche Flaubert, cioè cose come verità, come menzogna, come potere, come linguaggio inevitabilmente finiscono per, come dire, portarci a una impazienza concettuale. Bene, insomma, quindi come stanno le cose? Io non so esattamente come stanno le cose, anche se in qualche modo mi contraddirò in quello che vorrei proporvi adesso, in quanto anch'io inevitabilmente ricadrò in alcune forme di generalizzazione e forse un po' di caricatura, io, non voi, rispetto all'obiettivo che mi vorrei proporre. Parto immediatamente da una posizione, da un punto di vista che non è disciplinare, anche perché non è assolutamente condiviso da tutti i miei pochi esponenti della mia comunità disciplinare, ma è un punto di vista direi più di tipo epistemologico, cioè dal mio punto di vista il linguaggio non è esclusivamente il linguaggio, ovviamente, cioè non è soltanto quello verbale, per ovvie ragioni, per cui dal momento in cui non solo Jacobson, che è stato già citato, ma altri linguisti strutturalisti, Saussure, Hemdlow, eccetera, ci hanno insegnato che la lingua è una forma e non è una sostanza, da quel momento in poi è caduta qualsiasi distinzione tra tipi di linguaggio, linguaggio verbale, linguaggio visivo, linguaggio gestuale, eccetera. Sono delle semplificazioni che qualsiasi linguista, forse più quelli di allora che non quelli di adesso, metterebbero in discussione. Di conseguenza il punto di vista del semiologo, o almeno di come io personalmente intendo questo tipo di campo disciplinare, è quello per cui all'interno, cioè, viviamo in un mondo in cui esiste quella che viene chiamata una onnipresenza della significazione, che viene veicolata da qualsiasi materia del mondo, che può essere ovviamente quella verbale, ma potrebbe essere anche per esempio il fatto che qualcuno ha deciso di non farci sedere lì, ma di farci sedere qui in questo momento, e quindi di fare soffrire i nostri corpi. Se, come diceva il beniamato Foucault, che è stato a lungo citato, il potere costringe i corpi, in qualche modo loro sono una forma di potere che ci ha costretto così. Da un lato ci abbassano qui e quindi ci dicono siamo tutti uguali, è giusto, dall'altro lato fanno soffrire i nostri corpi. Lo dico scherzando, semplicemente per spiegare cosa vuol dire, no, scherzando per il discorso del potere, per spiegare il fatto che purtroppo uno dei principali difetti del semiologo è quello di essere sempre al lavoro e quindi riuscire a semiotizzare tutte le cose in cui si trova, suscitando giusta e comprensibile irritazione da parte delle persone con cui ha a che fare. Dunque, ho detto tutto questo per cercare di spiegarmi nel fatto che di fronte ad una dicotomia come linguaggio e potere, inevitabilmente il punto di vista è leggermente diverso da quello del linguista o del filosofo del linguaggio tradizionale, facendo finta che ne esistano. Perché non è appunto quello di mettere a confronto due cose, due elementi, due fenomeni, il linguaggio da un lato e il potere dall'altro, ma di far vedere come sostanzialmente tra le configurazioni di senso, le chiamerei così, i testi, i discorsi che circolano nelle culture e le forme di potere non c'è una distinzione e poi dunque un eventuale problema di relazione tra un elemento e l'altro, non c'è una relazione di esteriorità, diciamo così, ma di intimissima relazione. Dal mio punto di vista, per esempio, per fare un'altra citazione dotta, condividerei l'affermazione di Deleuze, che viene fatta nel suo libro, nei suoi libri sul cinema, secondo cui lui diceva molto chiaramente la semiotica non è una scienza del linguaggio, è una scienza della realtà. E da questo punto di vista affrontare il problema della politica va benissimo. Anche se, bisogna dire la verità, i semiologi lo hanno affrontato pochissimo, se ne sono occupati pochissimo. Non solo si sono occupati pochissimo del problema della sfera politica o di quello che chiameremo il discorso politico, ma si sono occupati ancor meno di quello che in questo momento a me più interessa e mi piacerebbe condividere e discutere con voi, cioè il problema della politicità dell'atto semiotico. Politicità dell'atto semiotico, non solo dell'atto semiotico di qualsiasi essere umano che produce e vive all'interno del senso, ma della politicità dell'atto semiotico, cioè di chi in qualche modo si pone il problema, come dicevano i maestri, di mettere il senso in condizioni di significare, cioè di cercare di capire attraverso un'analisi che è nello stesso tempo testuale e reale quelle sono le conformazioni di senso del mondo. Per cercare di introdurre questo problema, e per, credo possa essere utile, spostare leggermente la prospettiva rispetto a quanto abbiamo sentito finora, e per, credo, mi scuso ancora, ritornare un po' ai discorsi che immagino, da quello che ho capito, sono stati fatti stamattina, vorrei tornare su un tema che alla politica è ovviamente legato, anche se, se talvolta sembra o viene messo tra parentesi, cioè la questione della natura. Che è tema di evidente importanza nella molteplicità inevitabile delle sue accezioni di senso, del termine e del concetto, che mi sembra superfluo o sicuramente impossibile ripercorrere adesso. Ma io intenderei il tema della natura esattamente in quasi tutto questo arco di possibilità, per cui ci sta dentro l'ecologia, ma ci sta dentro anche, per esempio, qualcosa di cui credo valga la pena di discutere, cioè questo naturalismo, nemmeno strisciante, anzi direi imperante, all'interno del quale le scienze umane contemporanee stanno vivendo da parecchio tempo oramai a questa parte, e che sono, secondo me, una grossa operazione di riduzionismo intellettuale su cui varrebbe la pena di discutere. Mettendo insieme dunque la questione della politica con la questione della natura, entra in gioco un autore che non mi è sembrato di che sia stato citato sinora, mi riferisco cioè a Bruno Latour, che ha appunto scritto un testo che oramai ha una decina d'anni e che si chiama Politiche della natura, della fine degli anni, credo sia del 99, del 2000, qualcosa del genere, è già stato tradotto in italiano da parecchio tempo, ma mi sembra che in Italia sia stato discusso molto poco, e nonostante sia stato tradotto da Giorello nella collana di Cortina, e a parte mi pare qualcosa che ha fatto per Niola qualche anno fa, per delle ragioni che tutti possiamo immaginare, sia perché in Italia, soprattutto sui quotidiani e non solo, vige appunto quel naturalismo, quella naturalizzazione delle scienze umane contro cui inevitabilmente ci troviamo a combattere, sia perché Latour, come tutti sappiamo, è stato vittima di quel famoso affare Socal che sia, cioè questo libro sulle imposture intellettuali all'interno del quale anche lui era stato collocato, e quindi in qualche modo ha ricevuto questo stigma molto preciso di impostore intellettuale, e è stato liquidato in maniera, a mio avviso, un po' troppo rapido il suo pensiero. Lo racconterò molto in breve e in maniera molto drammatizzata, diciamo, in questo contesto, perché credo che possa essere utile al dibattito. La questione della politica della natura viene declinata inevitabilmente nel doppio senso del genitivo, cioè non solo una politica che si occupa della natura, per esempio tutta la questione ecologica, e dell'ambiente, la sostenibilità, eccetera, eccetera, sia dall'altro lato l'idea della intrinseca politicità della natura e dell'idea di natura che nella cultura occidentale è presente. Parlavo dell'ecologia, dell'ecologismo, diciamo così, delle politiche ecologiche. Dice giustamente Latour, a mio avviso, Latour, che gli ecologisti hanno introdotto nell'agenda politica appunto il tema dell'ambiente, dell'ambiente naturale, con tutto quello che sappiamo. Però lo hanno fatto in qualche modo senza assolutamente mettere in discussione l'idea di natura che la tradizione culturale occidentale ci ha tramandato, ci ha rilasciato, diciamo così, in un, in un amalgama di politica greca, cartesianesimo francese e parchi americani. Cioè una idea di natura grossomodo semplificata che deve moltissimo, da un lato, ai media, che rilanciano ovviamente qualsiasi politica, e dall'altro lato all'altro termine che ancora non abbiamo messo in gioco, cioè la scienza o la pratica scientifica. Quindi da un lato l'idea di scienza e dall'altro lato le pratiche scientifiche. Quello che non viene messo in discussione e dunque l'idea della scissione indiscussa, impensata, tra natura da un lato e società dall'altro, come se da un lato ci fosse la sfera del sociale con tutti i suoi problemi politici, appunto, e dall'altro lato la sfera della natura con tutti i suoi problemi scientifici o epistemologici di qualche tipo. Del resto sono gli stessi ecologisti, in alcune loro versioni, che si pongono il problema non più della difesa dalla natura, come per lungo tempo si è fatto nella storia della cultura occidentale, e neppure della difesa della natura, come fa l'ecologismo light, ma di una vera e propria progettazione della natura, cioè di un problema di costruzione sociale della natura. Il problema che oggi ci si pone, tutti i problemi legati alla sostenibilità e quant'altro, non è la difesa di quella poverina nicchia che forse è rimasta da qualche parte di qualche albero così come stava prima di quando noi uomini siamo arrivati là, abbiamo distrutto tutto. È esattamente il contrario, noi la dobbiamo ripensare e ricostruire, progettare. Un problema di designer, di architetti, di ingegneri, che ovviamente con i filosofi dovrebbero discutere o ne trarrebbero un qualche vantaggio. Da qui l'assunzione di un termine che anche lì mi sembra che in Italia sia stato poco discusso, che è stato introdotto nel dibattito delle scienze umane, soprattutto in antropologia, da un antropologo brasiliano che si chiama Eduardo Viveiros de Castro, che tra l'altro è uno studioso di Deleuze, il quale ha introdotto un termine che spiazza un po' e che forse è stato inteso ancora troppo poco, che è il termine di multinaturalismo, che è evidente fa come dire, il verso al multiculturalismo. De Castro, che è un antropologo appunto, ha studiato molto alcune culture amazzoniche ed è anche un linguista, ha utilizzato un autore che qui ho sentito citare, Benveniste, nello studio delle culture delle lingue amazzoniche, arrivando a mettere in luce come in molte di queste lingue il sistema pronominale fosse radicalmente diverso dal nostro, da quello che noi pensiamo sia universale, ma che ovviamente non lo è assolutamente, perché, fatemelo dire con una caricatura, gli indigeni danno del tu alla natura, danno del tu al mondo, non gli danno dell'egli. La natura non è l'altro, non è l'esteriorità, non è la terza persona, che quindi non è né io né tu che siamo l'intersoggettività. La natura fa parte dell'intersoggettività, è l'intersoggettività. E questa non è una... Perché vi ho fatto questo esempio? Perché quando si parla tanto di linguaggio, potere, linguaggio, cultura, vengono sempre inevitabilmente fuori cose come problemi come le parole, le cose. No, qui è un problema, un sistema pronominale, cioè è una articolazione formale interna alla lingua che si fa in qualche modo, segnale di un'organizzazione epistemologica completamente diversa. Cioè la questione del multinaturalismo è l'idea che il problema non è più che esistano molte culture, su cui tranne Calderoli quasi nessuno dubita, ma è l'idea che esistano molte nature, non molte idee di natura, molte nature, cioè che sono le culture che in qualche modo costruiscono forme di natura diversa, sia a volte come proprio altro, il tu, sia come proprio egli, ovviamente a seconda delle situazioni. Non è un caso che oggi chi detiene la cattedra di antropologia al Collège de France, che è stata di Lévi-Strauss e poi della sua allieva, di cui mi scuso in questo momento non ricordo il nome, cioè Françoise Héritier, grazie, si chiama Philippe Descola, che insegna antropologia della natura. È un libro che non so perché non è mai stato tradotto in italiano, o della De Nature et Culture, lui riprende questa idea del multinaturalismo, la sviluppa parecchio e credo che valga la pena tornarci su. Latour è stato uno di quelli che appunto è uno di quelli che in qualche modo ragiona a partire, come tutti sappiamo, da una pratica etnologica ed etnografica del laboratorio scientifico sulla differenza radicale che c'è tra la filosofia della scienza, in generale il senso comune nei confronti della scienza con la S maiuscola, e le pratiche scientifiche concrete, quindi ha lavorato su questo iato assoluto tra i due elementi, su cui torniamo un attimo. Salto su questioni che forse sono più interne alla mia disciplina, cioè il rapporto tra Latour e la semiotica, che in qualche modo è molto forte, e veniamo immediatamente alla questione fondamentale, cioè in un libro di qualche anno precedente, che è stato invece tradotto molto male in italiano, che si chiama Non siamo mai stati moderni, Latour interviene nel dibattito celebre sul postmoderno, eccetera, dicendo il problema se non è che se c'è il postmoderno non c'è, perché non c'è mai stata neanche la modernità. Cioè in qualche modo l'idea di modernità tradizionale, quella per cui appunto si è istituita la biforcazione netta tra la teoria della politica da un lato, il sociale da un lato e la natura e la scienza dall'altro lato, con eventuali possibili intrecci, ma con, a partire dall'idea di due mondi separati, non si è mai data. E in quel libro Latour raccontava di un famoso celebre esperimento che metteva, che fece dibattere a suo tempo Hobbes da un lato e Boyle dall'altro, su un problema relativo alla presenza del vuoto all'interno di alcuni esperimenti scientifici. L'idea di Latour allora era quella di dire una cosa che in fondo non è molto nuova in sé, cioè che da un lato l'esperimento scientifico costruisce dei dati naturali, cioè costruisce dei dati e li presenta come naturali. Si parlava poco fa di Copernico, è esattamente quello in qualche modo il problema, cioè nel momento in cui ci sganciamo dall'esperienza concreta e andiamo ad una costruzione scientifica, andiamo ad una scienza in cui l'esperienza non è più, come dire, in qualche modo necessaria, inevitabilmente entriamo nell'idea della costruzione scientifica del dato e dunque con tutti i problemi politici che questa costruzione scientifica del dato pone. Quindi dice Latour, da un lato ibridazione, dall'altro naturalizzazione, cioè successiva costruzione dell'idea di natura. Nel libro sulle politiche della natura il discorso si fa un po' più complesso, perché non c'è più nemmeno la questione della modernità presente o passata, data o non data, ma Latour in qualche modo è molto più radicale, è molto più, se volete, generale, perché ritorna niente di meno che al mito della caverna. E dice, per esempio, da bravo semiologo, senza saperlo, senza volerlo, il mito della caverna va preso innanzitutto come un mito, nel senso antropologico del termine, il quale mito, come tutti i miti, sta nell'insieme delle sue traduzioni. Non esiste un mito autentico. Il mito per definizione è una proliferazione di tradimenti e di traduzioni. E così è il mito della caverna, che non è un'allegoria, come dice la tradizione filosofica, è semmai una parabola. Cos'è una parabola? Una parabola è una metafora narrativa, se volete una narrazione metaforica, cioè c'è in qualche modo all'interno del mito della caverna, secondo Latour, una fondazione contemporanea sia di una certa idea della politica, non a caso il mito sta nella Repubblica, come tutti sappiamo, sia della scienza. È una contemporanea costituzione di queste due figure, di questi due campi dell'agire umano e della loro separazione. Dice Latour, il mito della caverna è curioso perché da un lato, come tutti sappiamo, pone una scissione spaziale, topologica. Da un lato c'è l'interno della caverna, dall'altro lato c'è l'esterno. Da un lato c'è il sole, c'è la luce, c'è la verità, c'è il sole che illumina le cose, dice la verità in qualche modo, o ci dà, appunto, c'è il mondo della natura. Dall'altro lato c'è quello che Latour chiama l'inferno del sociale, cioè questi poveracci legati lì che hanno la visione delle ombre e così via. Ma il problema è che questa separazione radicale tra un interno e un esterno, tra questi due mondi, viene attraversata e quindi trasgredita due volte, dal filosofo, come tutti sappiamo, che esce fuori dalla caverna e vede con qualche sforzo le cose. E poi torna dentro. In Platone va a finire un po' maluccio, ma nella storia, quella cultura occidentale, no. E quello è il problema. Cioè, il filosofo non è soltanto l'eletto, il filosofo, lo scienziato, avete capito, è esattamente la stessa cosa, non è soltanto l'eletto che esce fuori, si distacca dall'inferno del sociale dove la gente poveraccia si arrabatta e in qualche modo ha la verità, ma è qualcuno che torna dentro e la vuole comunicare agli altri, non solo la verità, ma contemporaneamente a partire da quella verità si crea o l'idea del filosofo re o del filosofo consulente, e quindi il filosofo che interviene nella politica, oppure una specie di tacito accordo tra queste due realtà. Io, filosofo, mi occupo del mondo, della natura, della verità, della conoscenza, tu, politico, ti occupi dell'inferno del sociale e tenti, poveraccio, disperatamente di metterci un po' d'ordine. Questa cesura originaria tra interno e esterno, tra caverna e mondo esterno, viene quindi attraversata due volte e il filosofo si fa portavoce della verità e ne viene fuori questa alleanza muta tra il politico e lo scienziato, che si dividono il campo, si spartiscono in qualche modo il potere. Quello che sto cercando di dire, riprendendo e un po' semplificando, se volete anche un po' semiotizzando il discorso di Latour, è che ci sono due poteri. C'è il potere del politico, che si contrappone al sapere dello scienziato o del filosofo, ma c'è il potere che ha creato questa distinzione, una specie di meta, se volete, potere che ha creato questa distinzione. Quindi sono due livelli completamente diversi che si intersecano tra di loro, dove da un lato il politico e lo scienziato si sono separati e non c'è nessuna relazione tra l'esterno del mondo, la verità della scienza e della filosofia, e dall'altro lato la politica, che è una questione completa, e la società, che sono questioni completamente diverse. Quindi avete capito, natura-cultura, questa opposizione natura-cultura contro cui Descola vuole andare oltre. E dall'altro lato questo meccanismo, che forse è un regime di verità, questo meccanismo che ha opposto questa, che ha creato questa forma di opposizione e che ha spartito il campo. Quindi non è un caso che alla fine, nonostante apparentemente lo scienziato e il politico, il potere e la verità abbiano dei conflitti, alla fin fine si trovano sempre alleati nel momento in cui c'è qualcuno che si mette lì e dice: il re è nudo. Guardate che le cose non sono così semplici, non è assolutamente vero che la scienza e la politica sono due mondi separati, siete voi che la volete porre così per continuare a farvi i vostri affari in qualche modo. E non è cioè un caso che non appena si ricostruisce o si prova a ricostruire questo tipo di problematica, arriva sempre qualcuno con quella che Latour chiama la retorica del pugno che viene sbattuto sul tavolo, e dice: beh, dai, smettila, i fatti sono i fatti, non rompere le scatole con le tue lucubrazioni, con un ricatto molto preciso, famosissimo, che è noto, quello dice: beh, dai, allora se tutte le i fatti scientifici sono delle costruzioni sociali, gettati dall'ottavo piano, non ti preoccupare, è una costruzione sociale, non ti accadrà nulla. È l'idea del fondamentalismo della ragione, ed è l'idea del fondamentalismo della ragione che porta a un refrain, un ritornello che ci sentiamo ripetere costantemente e che torna anche nel testo che ci avete proposto, cioè l'accusa di relativismo. Ecco, allora, relativismo, semplifichiamo, è tutto relativo. Il problema di Latour è quello però di andare un po' oltre questa situazione e di proporre quello che lui chiama, con terminologia analoga a quella che ho sentito prima, la costruzione di un nuovo bene comune, di un nuovo mondo comune. E lo fa, anche lì sto semplificando molto i vari passaggi, lui dice, spacchettando e rimpacchettando, cioè diremmo noi decostruendo e ricostruendo, una dicotomia e quindi due concetti ovviamente opposti e quindi correlati tra loro, cioè il concetto di fatto e il concetto di valore, cioè appunto il mondo della società valori, mondo dei fatti, la scienza e la natura. Lui dice, piuttosto che continuare a opporre fatti e valori, come Platone ha fatto, appunto ha costruito dal mito della caverna e in poi, piuttosto che quindi opporre descrizioni a prescrizioni, analisi a interventi, a decisioni, eccetera, proviamo a prendere sul serio l'idea che esistano le leggi dello Stato, da un lato, ma esistono anche le leggi della natura dall'altro lato, che hanno esattamente la stessa, direi, natura, cioè lo stesso tipo di, no, sono leggi della natura, quindi c'è un legislatore che in qualche modo le ha fatte. Sì. I fatti sono contemporaneamente un participio passato e un sostantivo. Quindi i fatti vivono questa terribile paradosso di essere contemporaneamente lì, fenomeni evidenti, ovvi, sono i fatti, come diceva Flaubert di nuovo, i fatti sono terribilmente stupidi, no? Ma dall'altro lato sono fatti, cioè costruiti, sono participio passato. E lì siamo ancora all'idea dell'ibridazione, della naturalizzazione che dicevamo prima, cioè il lavoro di citare il vecchio Marx, il lavoro di produzione è stato dimenticato. Però, dice Latour, questa idea dimentica una serie di problemi. Per esempio, non tutti i fatti sono fatti allo stesso modo, non sono fatti allo stesso modo e per gli stessi motivi. Non tutti i fatti servono all'interno della teoria allo stesso modo, alcuni sono esempi, altri sono modelli, altri sono manifestazioni empiriche di un qualche modello astratto, altri sono espressioni di un prototipo, cioè a seconda delle pratiche scientifiche concrete i fatti sono fatti diversamente. E quindi da un lato sono messi in forma da una qualche teoria e dall'altro lato sono messi in forma da una qualche teoria che è sempre inevitabilmente una mossa strategica. Questa è un po' la questione a cui proverei a dare questo tipo di risposta. Il problema non è verità menzogna, il problema è il valore strategico della verità e della menzogna all'interno di campi di manovra, di strategie, di controstrategie, di tattiche e controtattiche. Il problema non è se quella cosa lì è vera o non è vera, se è efficace o non è efficace, ma è l'universo pragmatico, valoriale, sociale all'interno del quale è inserita e dunque il gioco, la mossa strategica che si sta giocando. Quindi i fatti sono fatti, non sono fatti allo stesso modo e in qualche modo sono legati ad una teoria, ad un punto di vista e ad una gerarchia. Dall'altro lato i valori. I valori, dice Latour, poveracci, vengono sempre dopo i fatti. Prima vengono i fatti, stanno lì, nessun problema. Poi viene qualcuno che decide quali valori hanno. Per esempio, prima viene la clonazione, poi arriva qualcuno e cerca di dire se va bene o non va bene, da un'etica della clonazione, ma intanto la clonazione c'è, è lì, forse. I valori si costituiscono dunque sempre in negativo rispetto ai fatti, sono un dover essere che presuppone l'esistenza di un essere e dunque finiscono inevitabilmente per rinviare sempre a delle etiche universali. Non sono mai il valore di quel fatto lì, non sono legati una concreta pratica scientifica legata ad una situazione strategica, sono grandi valori e dunque finiscono per essere succubi dei fatti. Se continuiamo a tenere questa separazione tra fatti e valori, dice Latour, in qualche modo manteniamo una paradossalità, una contraddizione, se vogliamo, all'interno del concetto di fatto e una contraddizione all'interno del concetto di valore, con tutti gli usi strategici che di queste cose si fanno, ossia appunto l'idea di prendere dei fatti, attribuirgli dopo dei valori e costruire cose, tanto per essere chiari, tipo il razzismo. Ci sono le razze, quello è un fatto, dopodiché qualcuno decide di valorizzare questa cosa in qualche modo. Il problema è chi ha deciso che esistono le razze. I fatti, da un lato, dice Latour, alterano l'ordine del discorso, interferiscono con le abitudini, suscitano perplessità, complicano le cose, interviene un nuovo fatto nell'esperimento scientifico, nella pratica scientifica. C'è un fatto nuovo, e questo fatto nuovo scombussola in qualche modo tutto quanto. Da un altro lato però i fatti sono l'evidenza, sono l'oggettività, sono qualcosa che chiude la discussione. Capite che nel concetto di fatto c'è contemporaneamente un'apertura e una chiusura, un disordine e un ordine, cioè un'istanza di disordine, un'istanza di messa in discussione, di perplessità, è contemporaneamente un'istanza di istituzione, di messa in gerarchia, di istituzionalizzazione, di necessità dell'evidenza. I valori contemporaneamente hanno da un lato l'idea di, lui dice, di un'esigenza di consultazione, cioè parliamone, dibattiamone, discutiamone, vediamo un po' come stanno le cose, suscitano in qualche modo dunque una, appunto, una consultazione per l'idea che forse ci sono altre entità che potrebbero essere considerate. I valori però hanno anche una spinta opposta, che è quella della gerarchia. Ovviamente, di mettere in valore significa mettere in ordine, significa mettere in valore e in disvalore. All'interno dei fatti c'è dunque una esigenza di perplessità e un'esigenza di istituzione, all'interno dei valori c'è un'esigenza di consultazione e di gerarchizzazione. Io sono molto felice, avevo portato un PowerPoint, ma sono felice, non so quanti anni era che non andavo a un convegno dove non c'è un... sono molto felice di questo, però lì avevo lo schemino che avrebbe potuto in qualche modo aiutarci. O almeno aiutare me nel far vedere lo schemino e semplificare la spiegazione. Allora, l'idea di Latour dice, non lasciamo perdere i fatti e i valori, spacchettiamoli e mettiamo un pezzo del fatto con un pezzo del valore, un pezzo del fatto con un pezzo del valore e costituiamo altre due camere, le chiama così per ovvie, costituiamo un'altra, appunto, mondo comune con due camere, una camera alta e una camera bassa, una camera lui la chiama presa in considerazione e l'altra camera la chiama potere di ordinamento. Nella camera della presa in considerazione c'è da un lato la perplessità, c'è l'idea che delle altre cose devono essere si manifestano e possono essere prese in considerazione, è il fatto nuovo che arriva in qualche modo, che mette in discussione e che poi quindi crea la consultazione. Quindi perplessità, consultazione in una camera, nella camera di ordinamento invece abbiamo il problema della gerarchia, che stava nei valori, come vi ricordate, il problema della istituzionalizzazione che stava nei fatti. Facciamo un esempio. L'esempio, lo conosciamo tutti, lo ricorderete, è quello del famosissimo caso della mucca pazza. Il problema della mucca pazza, che in Francia è stato molto, prima in Inghilterra e poi in Francia, è stato molto più sentito che da noi, è, dice Latour, il classico esempio in cui le due vecchie camere, la natura da un lato e la società dall'altro, entra in crisi questo tipo di separazione. Perché a un certo punto si è posto il problema, qualcuno ci ha vinto anche un Nobel su questo, di trovare delle entità responsabili di questo morbo delle vacche. È venuto fuori questa entità. Questa, appunto, c'è un'entità nuova, un fatto nuovo che in qualche modo vuole essere preso in considerazione, cioè i prioni. Esistono questi prioni, sono loro i responsabili del morbo. Chirac chiede al professor Durmont, professore, ci dica, è questa la causa? E Durmont dice, è un problema suo. Cioè, Non mi faccia prendere la responsabilità di decidere, cioè il problema della mucca pazza non è esclusivamente l'agente fisico, naturale, che in qualche modo risponde si fa causa di un effetto che è quello della povera vacca che balla, ma è il problema economico. Quante vacche dovremmo uccidere? È il problema veterinario, è esattamente quello. È il problema turistico. Cosa succederà alla Francia, che vende tanta carne e che tante persone vengono qui a mangiare la bistecca? È il problema gastronomico, è il problema dell'immagine della Francia. Cioè è un problema politico, o no? Oppure è un problema scientifico? Ecco il problema che dicevo. Cioè non c'è una separazione possibile. L'intreccio è talmente forte che è inutile tentare, come fece Chirac, di scaricare su Dumont una responsabilità politica. A un certo punto va deciso se è più importante l'immagine della Francia, la carne francese, gli allevatori, le povere vacche, il turismo o, qualcuno che forse, o il rischio di morte di qualcuno che la mangia. È inutile pensare che sono due mondi diversi, cioè la scienza da un lato ci dà le risposte e poi c'è il politico che se ne assume le responsabilità. No, è il politico che in qualche modo deve dire allo scienziato cosa deve rispondere e viceversa. Sono esattamente lo stesso problema. Latour lì fa un esempio chiarissimo, dice nelle autostrade francesi ogni anno muoiono 8.000 persone. Non importa. Cioè a un certo punto un politico ha deciso che non importa. Cioè qualcuno ha detto d'accordo, però l'economia francese che si basa sulle autostrade è tale per cui vale la pena, è inutile negarcelo, di far morire 8.000 persone. Cioè non possiamo nasconderci dietro il problema etico o mettere una cosa di sicurezza in più. Per concludere, questo nuovo mondo comune, queste due nuove camere che potremmo ricostruire, da un lato la camera della presa in considerazione e dall'altro la camera dell'ordinamento, da un lato la camera che mette insieme perplessità e consultazione e dall'altro la camera che invece istituisce e gerarchizza, si assume la responsabilità di quella che potremmo chiamare una nuova esteriorità, cioè la, come dire, responsabilità di decidere cosa lasciare fuori, decidere che cosa è natura, che cosa quindi mettiamo dentro all'interno della società e che cosa lasciamo fuori. Ci sono delle entità che si decide che non verranno prese in considerazione, o magari si è fatta la consultazione ma si è deciso di lasciarle fuori. Queste entità stanno lì a bussare chiedendo di voler rientrare e dunque il movimento è circolare. Mi spiego, non c'è prima la perplessità, poi la consultazione, poi la gerarchia e poi l'istituzione. Al momento in cui c'è l'istituzione, immediatamente ci sarà una nuova presa in considerazione di nuove entità. E guardate che questo discorso, per concludere, vale perfettamente, anche se Latour non lo dice, sia per le pratiche scientifico-politiche di cui abbiamo parlato, ma se provate ad applicare questo discorso al problema dell'interculturalità, degli stranieri, eccetera, è esattamente lo stesso discorso. Cioè il problema, Latour non lo fa perché lui si occupa di etnologia della scienza, si occupa di altre cose, però potremmo esattamente utilizzare questo tipo di ragionamento per discutere del quanti ne prendiamo in considerazione di questi altri, quanti questi altri entreranno dentro, quanti ne lasciamo fuori, che peso economico tutto questo ha, che decisione politica ha, come considerare le etnie dal punto di vista naturalistico e quant'altro. Quindi si potrebbe anche in qualche modo introdurre un discorso su questo. Spero di essere andato troppo sulla tangente rispetto a quanto ci avevate chiesto e vi ringrazio per l'attenzione. Quindi per evitare di deluderli sarebbe meglio passare alle domande e alla discussione. Sono tre ore che sentiamo delle relazioni peraltro pregiate e anche prestigiose. fa un caldo che sembra una prova di sopravvivenza, per farla sembrare non essere che più complicato, ma anche una jam session o un lavoro degno della moltitudine, non di quella sorta di unità beota che è il popolo, secondo la tradizione politica seicentesca, perché non passare alle domande e agli interventi su quello già, sul tanto già detto? Però non facciamola lunga, se no facciamo come quella cosa che diceva Schmitt, che prima di decidere se Cristo Barabba si faceva subito una commissione d'inchiesta parlamentare. Quindi che facciamo? Vabbè, allora io dico alcune cose accaldate su, parlo a voce, no? Corpo. Che è una cosa diversa dal linguaggio, ma vedete, in questo caso il mio corpo è un corpo di parole, e quando mai non lo è stato il vostro o quello degli umani in genere, perché siete un po' cristiani e un po' cartesiani, il corpo e poi il linguaggio, la carne e lo spirito, e questi sono dei mediocri rifugi di un pensiero critico in ambasce. Allora, io parlo di linguaggio e politica all'interno e a partire da una tradizione di pensiero critico, che è il marxismo rivoluzionario dell'operaismo italiano, la tradizione che va dai Quaderni Rossi ai nostri giorni, e che dapprima ha provato a decifrare i misteri gloriosi della lotta di classe e dei rapporti di produzione negli anni della rivoluzione in Occidente. Voi dite la rivoluzione è stata una rivoluzione fallita, certo, ma se noi prendiamo in conto solo le rivoluzioni riuscite, capite che ci priviamo di uno sguardo significativo sulla storia umana. E poi ha cercato di affrontare la crisi delle categorie politiche moderne, dunque il nostro nuovo Seicento, intendendo per Seicento lo spazio-tempo in cui furono coniate le parole chiave che continuiamo ad adoperare, chi più chi meno, chi in modo automatico e il riflesso, chi in modo critico, ancora oggi. Siamo visibilmente nel corso di un nuovo Seicento che conia, un bel romanzo di tanto tempo fa, le parole per dirlo, le categorie stesse, trovando non più decenti e utilizzabili quelle che ci ha consegnato la modernità. Allora, questa tradizione, come tutte le tradizioni, colloca, ma non rassicura, la tradizione dell'operaismo italiano, e si presenta, ti incalza semmai come un rimorso a volte. Non è una garanzia, ma spinge semmai a rischiare, a massimamente rischiare. Così funzionano le tradizioni. Le tradizioni, quelle non burocratiche, che passano per una eredità testamentaria. E dunque il tema linguaggio e politico all'interno di questa tradizione. I marxisti-leninisti chi se li ricorda più? Scusate, anche i gramsciani chi se li ricorda più? Nonostante che lì sia stata fatta un'ingiustizia, perché Gramsci era un grande e prestigioso linguista che ha pensato da un certo punto in poi l'egemonia e la trasformazione delle forme politiche a partire dalla trasformazione linguistica. Però i gramsciani chi se li ricorda più? E invece questa tradizione fatta di amicizia senza familiarità, di diatribe interne, di piccole vanità, di personaggi fuori di testa, in quanto tradizione collettiva si è mostrata massimamente vitale. Se qualcosa si può esportare della seconda metà del Novecento, scusate, non è Calvino, ma questa forma di pensiero politico, linguaggio e politica. Il problema è che il linguaggio lo si confonde con uno strumento di comunicazione. Due errori, strumento e comunicazione. Fatti questi due errori si è fuori dalla partita, tanto vale andarsi a fare la doccia. Non è uno strumento, ovviamente. Strumento è ciò che noi abbiamo fabbricato. Strumento è l'aratro, il computer, la macchina, ciò che può essere separato da noi. La macchina la posso parcheggiare, il linguaggio lo posso parcheggiare. Il computer lo posso spegnere, il linguaggio lo posso spegnere. Ovviamente il linguaggio definisce quello che è tipico di una specie connotata in lungo e largo dalla storia e dalla politica. E non è di, confondere la linguisticità con la comunicazione in un altro modo che mio nonno diceva è meglio di no. La linguisticità è qualcosa di diverso, ci provò quel, interessante peraltro, non c'è più, semiotico italiano, Rossilandi, a pensare gli enunciati come merci, gli enunciati sulla base di schemi marxiani di circolazione e produzione delle merci, ma non funziona. Linguaggio è il silenzio, linguaggio è chi è taciturno, linguaggio è chi si sottrae alla comunicazione, questa è la linguisticità umana. E ovviamente linguaggio è pensiero, linguaggio è affetti, linguaggio è pulsioni. Insomma, ricordate quella bella frase di Deleuze, no? Qual è la bella frase di Deleuze? Ma me la dico subito così capite quanto è bella. Un pensiero che desidera e un desiderio che pensa. Questo è l'uomo. Ora, la cosa interessante è che il linguaggio non determina in quanto tale, in quanto aver linguaggio, i desideri del pensiero o i pensieri del desiderio, ma determina esattamente l'intreccio indissolubile fra le due cose, fra piano pulsionale e piano subsimbolico e piano storico. O ancora, il linguaggio è esattamente ciò che ci rende naturalmente artificiali. E che cosa vuol dire naturalmente artificiali? Che per natura dobbiamo cambiare i modi di produzione, buttare giù i regimi, come diceva Shakespeare, gentiluomini, la vita è breve, se vivete, vivete per calpestare la testa dei re. Così diceva Shakespeare, che riassumendo il carattere emozionante, anche terribile, della nostra artificialità. Che significa? Che quando sono massimamente artificiale, allora sono veramente naturale. E viva il naturalismo, e che quando sono massimamente naturale in quanto animale linguistico, allora non posso che ritrovarmi fra le mani un massimo di artificialità storico-culturale. Senza linguaggio non c'è politica. Qui arriva subito un'altra interpretazione da andare sotto la doccia. La prima era il linguaggio come strumento di comunicazione. Il linguaggio non è principalmente comunicazione, non lo si definisce comunicazione. È la nostra forma di pensiero, è il nostro modo di stare al mondo. In der Welt sein. Beh, insomma, quella roba là. Essere nel mondo è la nostra linguisticità. E perché questo linguaggio, che non è uno strumento, e che non è definito in alcun modo dal suo potere comunicativo. Dal punto di vista comunicativo, il linguaggio delle api è molto più efficace e preciso, non ha quelle ambiguità, quei colpi a vuoto, quei difetti visibili. Quindi per cortesia, è la nostra vita. È difficile accettarlo, d'accordo, allora non accettatelo. Ma non è uno strumento e non è comunicazione. Allora, il linguaggio è politica. È ovvio che il linguaggio... E qui comincia il gioco delle... Ah, a proposito, quella frase di Deleuze che vi piaceva, spero, un desiderio che pensa e un pensiero che desidera, ovviamente non è di Deleuze, è Aristotele, no? Il corrispondentista, il naturalista, tutta quella roba terribile. Ovviamente, il libro sesto dell'Etica Nicomachea. Ma non ho mai trovato nessuno che dicesse, ma no, guarda, non è Deleuze, mi sa di Grecia. No, perché Aristotele è quello, la parola, la cosa, poveraccio. Vabbè, allora, c'è quest'ulteriore impaccio. Noi, in quanto abbiamo linguaggio, che è una forma di vita, anche nel senso biologico, che è una forma di vita, siamo politici. E qui ci sono dei wittgensteiniani morigerati, che non colgono mai il segno, per cui ci sarebbero fra i tanti giochi linguistici dell'umanità anche quello politico. Ora faccio il gioco linguistico, che ne so, del lavoro scientifico, ora il gioco linguistico dei rapporti religiosi, l'ordine simbolico, ho l'impressione che una parte almeno della nozione non tecnico-lacaniana, ma nell'accezione più ricca filosoficamente e teoricamente che io trovai nell'ordine simbolico della madre, semmai abbia una parentela, per dirla con Vitti, che sai, un'area di famiglia con i giochi linguistici wittgensteiniani, ma questo adesso non importa. Questo è completamente sbagliato. È l'aver linguaggio, attenzione, non l'uno o l'altro gioco linguistico, è l'aver linguaggio come tale che ci rende politici. Capite? Quindi vi è una coestensività piena, non è una delle prestazioni possibili. Ovviamente va da sé, lo sapete, parte di voi fa filosofia o comunque si occupa di libri, che anche il comportamento del tutto e radicalmente impolitico è solo una possibilità difettiva della nostra linguisticità, politicità. Allora, queste caratteristiche, il plesso tra un desiderio che pensa e un pensiero che desidera, apre la dimensione della politica, fa della nostra vita una vita sempre integralmente politica e che per questo prevede semmai dei momenti come l'amore, che per dirla con quella pensatrice, di cui non condivido mai una parola, ma che continua a rileggere perché pensava con la sua testa, Arendt, che sono apertamente impolitici, ma naturalmente è una possibilità della nostra politicità. Lo è per questo, politica è questo, tutte quelle cose della modernità, l'intreccio fra desiderio che pensa e pensiero che desidera, tutte le storie dello stato di natura da cui per fortuna non possiamo mai uscire. Possiamo solamente far finta, no, di segarlo da noi e poi rientra come, nella forma dello stato d'eccezione della moltitudine. Tutte le storie obesiane. Siamo politici per questo, perché linguistici. Piacere e dolore, beh, questa è una coppia su cui discrimine se ne capiscono anche gli altri animali. Ma la politica nasce quando, oltre questa coppia di contrari, si ha a che fare, si è intimi, si ha dimestichezza con le coppie utile, nocivo, giusto e ingiusto, e senza pensiero proposizionale, senza pensiero verbale, semplicemente non vi è quest'altra distinzione. Quindi linguaggio coestensivo alla politica. Attenzione, perché sto per scagliarmi contro questo linguaggio, fra un momento mi scaglierò contro questo linguaggio. Poi tutto si gioca sulla nozione di comune, Giacomo, ma anche altri interventi, a patto di opporla a quella di universale. Attenzione, è un po' come la storia di quelli che dicono moltitudine, questo 20 anni fa furono dette le cose essenziali su una delle riviste della mia tradizione, Luogo Comune, sulla moltitudine. Se non vi è questo elemento di opposizione, nulla si capisce della vita dei molti, così nulla si capisce dell'eventuale valore della nozione di comune se non in opposizione a quello di universale. Grosso modo, la vista che ciascuno di noi possiede in proprio, possiamo dire che è una dotazione universale. Tutti i singoli ce l'hanno. Beh, una lingua no, una lingua è una prerogativa che esiste in quanto prerogativa laddove è condivisa comune. Capite la differenza? Prendere proprietà inerenti a ciascun singolo e dichiararle generali o universali. Invece ci sono delle proprietà che nascono proprio e solo dalla condivisione. Allora, qual è il punto? Il comune, il linguaggio è il comune. Certo, anche l'acqua, non scherza, però il linguaggio è il comune. E qual è il suo ruolo strategico dal punto di vista della teoria politica? Che non è una promessa, come l'universale degli stati, ma una premessa dell'azione intraprendente della moltitudine. Punto anticipato dalla relazione Marra-Maesca. Ora, capite, tutti questi motivi, naturalmente artificiderio che pensa, oltre il piacere e il dolore, la coppia giusto e ingiusto, il linguaggio come comune, come uno, ma che avete disprezzo dell'uno, ma non capite che l'unica possibilità dei molti, della molteplicità, cioè della moltitudine, non più aspirata sinteticamente dalla forma Stato, che l'unica possibilità della moltitudine è avere alle sue spalle, come una premessa, un uno. È quello che autorizza la molteplicità dei molti e quest'uno comune, non universale. Anche sotto il profilo logico si potrebbe lavorare a lungo, però ve lo risparmio, se no vediamo il rapporto fra modus ponens e politica, mi pare che abbiamo veramente fatto il pieno. Ora, qual è il problema? Non elenco gli altri motivi che garantiscono la perfetta equazione, identità e coestensività tra l'aver linguaggio verbale, che non è strumento né comunicazione, ed essere politici. Che proprio per questo non troverete mai nel modo d'essere del linguaggio in quanto tale un'indicazione sulla buona vita o su una società decente. Il linguaggio è sempre parte del problema, non solo parte del problema, ma condizione di possibilità della nostra politicità, ma pretende di ricavare. Quella è Habermas ed è finita. Al terzo motivo per andare in doccia, l'intesa comunicativa, come se nel linguaggio ci fosse una buona volontà, come se nel linguaggio ci fosse, per così dire, una virtù, talvolta, puro Rousseau, deturpata, questo Chomsky, deturpata dai sistemi sociali, che si tratta di far riaffiorare la sua naturale e inarrestabile creatività. Ma ve lo immaginate? sempre parte del problema, sempre terreno di battaglia, sempre posta in gioco e al tempo stesso condizione a priori della nostra politicità. Capite la difficoltà, il doppio ruolo? È come se uno volesse giocare con le parole, ma appunto stiamo facendo questo, e al tempo stesso trascendentale, condizione di possibilità ed empirico. Allora, sotto questo profilo, mai e poi mai si potrà trarre un programma politico dal modo di funzionare della nostra grammatica o della nostra retorica. Ciò è chiaro. Il che non significa che retoricamente, logicamente, grammaticalmente non diamo luogo a quelle di sfide che venivano chiamate con una parola dal doppio significato, significati opposti fra loro dai greci, stasis, che vuol dire quiete e guerra civile. Certo. Com'è il linguaggio? Perché questo è il punto. E il linguaggio tiene a freno e al tempo stesso è, per tanti aspetti, il massimo pericolo di cui per altri versi esso, proprio esso, è il farmaco. Io credo che vi sia stata negli ultimi anni, visto che il lavoro è diventato linguistico comunicativo in parte, e anche quando è silenzioso, mettere insieme i pomodori a battipaglia, pesa come sfondo, ma sfondo materiale, carnale, il fatto che quelli che raccolgono i pomodori sanno cinque lingue, mentre io so giusto la mia e sì e no, capite qual è il punto? Quindi diciamo così, questo elemento sistematicamente, intelletto generale, diceva la buona tradizione, cioè la mia, la tradizione forte del pensiero forte italiano della seconda metà del Novecento, intelletto generale, nozione al tempo stesso di Averroè e di Marx, general intellect. Ovviamente il general intellect è la linguisticità umana, ma sarebbe impolitico e pericoloso pensare che da questa linguisticità umana, in qualche modo esibita dal rapporto di produzione contemporaneo, rettamente provenga il bene. Ma no. Se la moltitudine, e non sto a insistere su cos'è e cosa non è, perché è stato già fatto e quindi si possono consultare archivi, riviste e libri, e se la moltitudine è qualcosa, è anche guerra fratricida, è anche aggressività scatenata. Quindi pensare che dice, no, meno male, mo c'è la moltitudine, per giunta con l'orrore totale, questo sì, della comunicazione, si usa moltitudine che è già un termine plurale al plurale, le moltitudini, e così di nuovo, quarta volta, doccia. La moltitudine è ovviamente, in quanto esibizione in corpi sessuati, in forme di vita determinate, della linguisticità umana come forma di vita, la moltitudine è ovviamente aperta al massimo di ambivalenza. L'esodo, la mia tradizione ha chiamato così il gesto di schivare, mai farsi trovare al posto in cui credono, mai resistere, inventare un tertium datur, dove si crede che tutta la situazione sia piena come un uovo, vedere che invece c'è ancora un vuoto, c'è ancora una possibilità, come nell'esodo. Cosa faccio? Provo a rovesciare il potere del faraone, a diventare Stato, a costituire un nuovo monopolio della decisione politica, oppure subisco passivamente il potere del faraone? No, ci sono più cose fra cielo e terra. C'è una terza possibilità, quella in cui non ci si fa trovare dove credono di trovarsi, e si intravede una terra libera, un'eccedenza, il percorso nel deserto. Però il percorso nel deserto non si capisce nulla se non questa moltitudine linguistica che fa esodo, ed è quella la forma politica che più di ogni altra, a mio parere, ci parla di un lessico politico del nuovo Seicento, non nuovo monopolio della decisione politica, ma esodo. Beh, però bisogna sapere, se no, quella moltitudine linguistica, quella forma di vita che intraprende l'esodo, sotto le falde del Sinai, e lo sapete tutti per uno straccio di resto di educazione cristiana, cosa succede sotto le falde del Sinai? Lotte fratricide, le mormorazioni, nuove idolatrie, rimpianto per la casa della carne abbondante, per l'Egitto, ma soprattutto odio per chi è più vicino. Come e l'esodo c'è stato alla fine degli anni 70, quando la gente preferiva la flessibilità, sentendosi politicamente forte, pur di non avere l'ergastolo, dove l'ergastolo erano le carrozzerie tutta la vita alla Fiat. È durato poco, c'è stato l'esodo e Marx lo ha analizzato negli Stati Uniti, in cui sono saltate le leggi del mercato del lavoro perché potevano inoltrarsi a Ovest. Ma mai credere che vi sia come un'applicazione virtuosa della linguisticità umana. Mormorazioni, esodo, ma sempre accompagnate dalle mormorazioni. Allora, due riflessioni finali. In realtà la mia relazione, ho parlato già più del giusto, ma volevo fare una relazione sul rapporto che in sede linguistica hanno i luoghi comuni con i luoghi speciali del discorso, e vedere come questo nesso caratterizza in una maniera interessante e nuova la vita metropolitana. Non l'ho fatta questa relazione e non la farò, però due osservazioni. Il linguaggio non è soluzione ma parte del problema, la nostra linguisticità. E attenzione, oltre a essere parte del problema, è anche ciò che fonda la politicità umana, anche nelle sue forme difettive, omissive. Ma il linguaggio, meglio la lingua, ci dà istruzioni sulla forma, non sul contenuto, perché il contenuto fa parte delle lotte contingenti di classi, di donne, uomini, gruppi, ma sulla forma di un'istituzione post-statale. Questa è la domanda. Attenzione, capite? E di nuovo questa istituzione post-statale può diventare la stasis. Non c'è garanzia. Questo, diciamo, è il bello di questo gioco, che è il gioco della storia, chi vuol giocare alla storia, che non c'ha garanzie, che si mette dalla parte del linguaggio e quindi va verso l'intesa. Questo, vabbè, ma finito. Qual è il punto? La lingua, dice Saussure, che è curiosa questa riflessione politica di Saussure, la lingua è la madre di tutte le istituzioni. Lui parla dell'istituzione matrice. Quindi c'è poi la moda, cioè le istituzioni in senso largo, non il tribunale necessariamente, ma anche la moda, varie forme associative, il diritto naturalmente, lo Stato. Che differenza c'è? Attenzione che io sto dicendo, se pur non avendo in sé un contenuto emancipativo la lingua e il linguaggio, ci offre almeno una riflessione sulla forma di una istituzione umana non più statale, cioè non più legata a quella forma di universalità che abbiamo conosciuto nella modernità. Questa istituzione matrice, dice Saussure, rende possibile tutte le altre, ma si differenzia dalle altre perché è al tempo stesso la più naturale e la più storica, come lei sa perché mi ha assorbito 36 ore di questa solfa quest'anno. Vale a dire, è la più naturale perché si radica in una capacità biologica, ed è la più storica perché non ha limiti nel campo di applicazione. Può parlare di ciò che non esiste, può parlare del possibile, dell'eventuale, mentre la moda o il diritto non sono radicate nel cervello umano, quindi in questo senso non sono naturali come la lingua, ma sono limitate a un campo applicativo determinato. La moda, per esempio, ha come fatto e come presumibilmente sarà il corpo umano. La più naturale e la più storica insieme, capite la difficoltà a pensare questa cosa? Peraltro, uno dei motivi per cui il linguaggio ci fa politici non è perché è uno specchio del mondo, ma al contrario, per la sua drastica e radicale non corrispondenza col mondo. La non corrispondenza fra parole e cose ci permette di dire le cose come non sono e quindi di farla finita con l'unica barbarie moderna che è il lavoro salariato, capite? E ci permette di avere dimestichezza col possibile e l'inesistente. E qui il potere della negazione, la non corrispondenza fra enunciati e fatti, anche quando gli enunciati significano convenientemente quei fatti. È questa distanza che apre lo spazio della politica e della storia. Allora la domanda è, questa istituzione, la più naturale e la più storica, che non ha oggetti che le sono preclusi, non ha campi di applicazione che le sono preclusi, è anche per Saussure una istituzione insostanziale. Cercate di, capisco che è una metafora questa volta letteralmente sudata, ma cercate di far valere il termine insostanziale nell'ambito della politica e della teoria politica. Vale a dire, dice Saussure, non c'è nessun elemento singolo autoconsistente. Tutte le parti della lingua valgono unicamente per la loro opposizione e differenza con le altre. Vale a dire, è un'istituzione che, in cui non solo non ci sono che differenze, ma non ci sono che differenze senza termini positivi presupposti. Le differenze creano l'identità dei singoli termini. Allora, io quello che chiedo è, nell'epoca in cui vi è una sussunzione della natura umana, una disposizione sulla natura umana, quindi la natura umana che era quella di sempre, non è che quelli parlavano diversamente da noi, cioè avevano la stessa capacità di linguaggio, un'esibizione dunque, un'esposizione universale della natura umana all'interno del rapporto di produzione, è concepibile una istituzione, un modello di istituzione, certo questo è un modello astratto geometrico, ma un modello di istituzione che si rifaccia alla matrice di tutte le altre istituzioni, anziché alle istituzioni che presuppongono questa matrice. È possibile, domanda alla quale io non so rispondere, però penso che sia lecita la domanda, è possibile pensare un'istituzione postatale, istituzioni dell'esodo, insostanziali e fatte di differenze e differenze tra differenze, dove le differenze e le differenze fra differenze sono esse che determinano eventuali contingenti, positività e consistenze. Questo tipo di domanda, a mio parere, in un certo senso, dopo il tramonto dello Stato, Carl Schmitt disse con amarezza, è finita l'epoca dello Stato. Certo, passeranno dei decenni, ma è finita questa grande invenzione, per lui grande invenzione della modernità, è finita. Tramonto lungo, le stelle che muoiono possono continuare a lasciar luce per decenni, non è quello il punto, è finita. È possibile pensare la istituzionalità umana, l'elemento irrinunciabile di istituzionalità umana su cui ha lavorato l'operaismo italiano nell'epoca di questo tramonto prolungato e soprattutto nel dopo Stato, prendendo a modello l'istituzione delle istituzioni, l'istituzione insostanziale, la più naturale e al tempo stesso la più storica. Basta. La frase che lei ha presentato di Foucault riguardo il rapporto tra regime di verità, tattiche di potere, dispositivi e coscienza, e lei si diceva non d'accordo con quanto diceva Foucault sulla preeminenza di questi, del regime di verità, delle tattiche di potere rispetto alle coscienze, cioè bisogna rovesciare questo rapporto, mi sembrava di aver capito. Allora, quello che penso... Allora, appunto questo volevo dire io. Allora, a mio modo di vedere la rivendicazione femminista delle pratiche di relazione è una rivendicazione più che legittima, come operatore di cambiamento reale, pratico. Soltanto, e non dico che lei dice questo, però non vorrei che ci fosse questo spostamento, mi sembra errato far scaturire da questo un paradigma generale che possa essere spostato all'infinito a piacere, perché se così fosse... A mio avviso il rischio sarebbe quello di ricadere in una forma di idealismo per cui è la coscienza che determina l'essere. Io non sto dicendo che lei dice questo, però volevo puntualizzare. Cioè quello che penso io è che noi non è che siamo, voglio dire che una forma di dogmatismo all'incontrario, che siamo esseri passivi, plasmabili, che siamo incapaci di agire, ma a mio avviso i movimenti che possiamo fare sono limitati e noi giochiamo un gioco in cui non tutte le mosse sono possibili. Cioè l'autonomia che si può formare è un'autonomia relativa, ma come la vedo io si tratta sempre di isole autonome all'interno di un mare di libertà. Allora le isole autonome si possono formare anche attraverso un moto soggettivo intersoggettivo, ma questo mare di libertà, a mio avviso, se è possibile cambiarlo, e ho i miei dubbi, metto tanti punti interrogativi, si può cambiare solo strutturalmente. Allora, per concludere, quindi da questo punto di vista, per esempio il concetto marxiano di coscienza di classi si viene ipostatizzato, secondo me è un feticcio che va buttato via, e riallacciandomi in conclusione quindi alla presa di coscienza femminista, da questo punto di vista secondo me è possibile, appunto mettendo in evidenza l'importanza presa di coscienza, la presa in momento soggettivo e intersoggettivo, però non va dimenticato che è stato possibile anche perché strutturalmente il dominio patriarcale ha presentato tutte le sue contraddizioni, le sue aporie, le sue crepe, e c'è stata una crescita dello status della donna in concomitanza con queste crepe mostrate al dominio patriarcale e con dei cambiamenti economico-sociali. Volevo solo puntualizzare questo. Significativo che dirlo è re di questo movimento che ha preso quello che avveniva in Russia, quello che avveniva in altri posti, in posto, e non dimentichiamo Peirce negli Stati Uniti d'America, che si trova con loro, ha saputo mettere in parole e ha detto le cose che vi ha riassunto e che gli serve come schema, come base per impostare la sua domanda, che non è cosa da poco, voglio dire, è una cosa enorme, per dire questa primazia che è andato per me dalla cosa del simbolico nel corso della nostra cosa. E per dire anche la eccellenza che ha dimostrato la politica delle donne a profittare di questo. Quando parto, perché vorrei raccontarti altre cose, ma avremo altre occasioni. Se tu sei in congiunta con Io avevo una domanda per il professor Marramao, ma in realtà si ricollegava anche al discorso dell'uno che aveva fatto Paolo Virno, come l'uno come premessa della molteplicità della politica, che personalmente non condivido molto. E lei prima ha detto che il potere è eterotopico e che praticamente detronizza... Sì. Che oggi, appunto, il punto è proprio sull'oggi, che detronizza le logiche dell'autorità dissimulando le fratture longitudinali del conflitto attraverso la modulazione del linguaggio. E a me è venuto subito in mente, un po' per deformazione, perché in questo momento mi ci sto concentrando molto, il discorso che fa Nicole Loro, però sulle pratiche nell'Atene del V secolo che riproducevano proprio la stessa cosa. Penso da un lato... No, riproducevano proprio la stessa cosa. E penso da un lato a quello che lei descrive come la riluttanza ad usare la stessa parola democrazia all'interno dell'Atene del V secolo, preferendo epolis, cioè la città personificata come soggetto unico, proprio perché democrazia, alludendo al Kratos, alludeva alla vittoria di una parte sull'altra e quindi la divisione, una precedente divisione poi sanata. E dall'altra parte penso pure al fatto che, per esempio, nell'Atene del V secolo la cittadinanza femminile non avesse nome, cioè a livello proprio linguistico non ci fosse una parola che alludeva alle donne in quanto cittadine di Atene. E anche lì quindi il linguaggio che tenta di dissimulare la divisione, il conflitto, riportandolo all'uno. Allora io mi chiedo, è davvero qualcosa che è presente oggi, o è proprio questa dissimulazione del conflitto attraverso il linguaggio, è qualcosa di proprio coestensivo al politico? Io ti la causo una lettrice. E sono stupita un po' dalla tua domanda, perché non è che io voglio, non ho la finezza che abbiamo scoperto stamattina nella lettura del pensiero di Lacan, però sono, ecco, quindi la tua domanda mi stupisce perché non c'è in verità, ecco, poi nel secondo punto non c'è il detto di me che ho stabilito, mentre mettiamo a fuoco dico qui sì, ma a questo punto no, mettiamo, con Lacan non c'è esattamente se non quello che ha citato molto finemente e precisamente i Lacaniani, quando dico tra l'ordine socio normativo e l'ordine simbolico io sospetto che c'è complicità, e per una ragione precisa, perché Lacan aveva dedotto dal suo ordine simbolico la posizione storica che avevano le donne, merce di scambio, qua, su, giù, una posizione storica che avevano le donne e che già qualcuno aveva detto forse c'è qualcosa che non quadra, allora io dico c'è il sospetto di complicità, argomentato per questo, non è possibile che si deduca da un ordine simbolico una condizione storica che in effetti era destinata a vedere dei mutamenti notevoli. Quindi ho dei punti di discrepanza, ma è questo quello maggiore, perché dal punto di vista per il resto io, eccetera. Ti faccio però presente una cosa, e cioè che sul segno, sul simbolo, sul linguaggio, sulla lingua non avremmo mai finito di indagare, mai. Cioè ci torniamo sempre, ok, necessariamente su qualsiasi questione, ma è sempre un argomento, ma questo veramente da sempre. Dalla notte dei tempi, tutte le culture, quello che fa segno è motivo di indagine. E quindi può essere che quello che ho detto io sia, come dire, non sia la camma, non è una rottura colta. Tu mi sembra che attribuisca la camma a cosa di carattere psicologico, ho capito bene la parola? Sì, nel senso sì, dicevo, certo. La casa fosse qui in sorgere. No, nel senso. Lui ha inventato una struttura. Che è per leggere questa struttura, per leggere quello che è, noi chiamiamo solamente la realtà e l'essere umano in primis. Lui ha solo inventato una struttura, lui la psicologia l'ha aborrita, la considerava fuorviante, non ha mai ritagliato la realtà psichica rispetto a altro, mai fatto, non l'ha mai voluto fare. E perché? Perché è uno psicanalista ed è quello che no, perché, perché è Lacan. E Lacan pensa che siamo strutturati dal linguaggio. E che quindi siamo fabbricati, la parola fabbrica la usa dal filosofo Iris Mardoch, la fabbrica umana, siamo fabbrici, la fabbrica in inglese vuol dire anche telaio dove si tira, quindi anche tortura, siamo fabbricati linguisticamente. Simbolicamente, dico simbolicamente in senso lato, siamo fabbricati così, la quella cosa individuata dalla psicologia, per materia prima che sarebbe la quella che noi chiamiamo psiche, lui avrebbe accettato probabilmente che io la chiamassi, come la chiamo, esperienza, che però non ha qualità. La esperienza che cos'è? Presenza, c'è qualcosa presente a qualcuno, questa è l'esperienza. Questo avrebbe accettato. Tutto il resto si va a vedere, si va a fare. Comunque per dirvi che dopo c'è chi sulla natura del segno che si ha riflettuto per altre strade, ma io per la casa è sulla mia strada, quindi non mi sento di seguire. Magari ti facciamo sì che se qualcun'altra qualche domanda per la professoressa Samuraro, sì, si prepari, meglio, perché è tempo fino alle 7, fino a quando? Sì, no? Fino adesso. Quindi tra ora e domani. Io prendo il microfono per ringraziare e salutare, che è meglio. Sì, va bene, è una malora. Io saluto adesso voi e saluto i compagni, i colleghi che hanno parlato, che ho ascoltato e mi scuso che andiamo via prima del dibattito. Non è una cosa che si fa, però sono qui da ieri, sì, no, sì. Sono qui da domani. un viaggio. Mi farà leggere la tua. Non prendo percentuali. Sì. linguaggio di chi ha interesse a cambiare le cose, anche nel senso, diciamo, di rottura e di sottilità, forse debba essere un linguaggio fatto di parole che siano in qualche tipo di modo enti primi, no? Moduli primi di non ulteriormente sottoponibili a critica, non ulteriormente ricostruibili. Quindi ponendo sia riparo, no, del gioco di rimessa da parte del potere costituito. Oppure se possa o debba essere un linguaggio che opera con degli enti che già sono carichi di significato e che utilizzare il significato che sta in questi enti verbali. Per fare un esempio sono concreto, adesso almeno io pensavo anche con altri parlando, negli occhi, in qualche modo ancora queste immagini del Partenone di Grecia con questa striscione sui popoli d'Europa e dell'Aria, per cui era tutto molto, diciamo, super politico, super determinante, il Partenone, l'idea di popoli, quindi l'idea un punto di partenza, come un'opzione scelta, e io scelgo di mettere nel mio circuito l'idea di questa idea, questo che è il popolo. È una cosa che fa problema questo, oppure no? Stesso si va. Volevo collegare sulla base della reazione della comunità che sta sollevata sia da Marramao che da Mirno, che poi riprendeva Marramao proprio a proposito del comune. Ah sì. Del comune, l'esigenza di pensare, diciamo così, questo trascendentale del comune a partire dalla problematica, dal compito del rincantamento, se era legato alla questione dell'uno sollevata come differente però da un universale, che sarebbe la fondazione della comunità, se non ho capito male. Cioè quell'uno di cui parla Mirno è da collegare a, come comprendo la questione che stava Marramao, l'esigenza non tanto di spingere l'acceleratore su un disincanto piuttosto sul rincantamento del mondo come sottrazione, quindi aspetto politico del linguaggio che sottrae, sottrazione da quell'incantesimo, diciamo, della contingenza storica politica che ci lascerebbe, ma forse rispondo incantati all'idea di una secolarizzazione totalizzante. Allora, proprio perché il destino della secolarizzazione non è ineluttabilmente la sua totalizzazione, le risorse del linguaggio producono necessariamente l'ipotesi del compito dell'incantamento. Quello è quello di cui parla Mirno. No, se il collega Marrone non ha nulla in contrario, rispondo un attimo, perché se no mi dimentico quello che è stato detto. Allora intanto incominciamo con la appunto prima domanda che mi è stata posta, così. Sulla, appunto, a partire da Niccolò Rho, cioè in sostanza lei dice questo, che la dissimulazione del conflitto c'è sempre stata, è vero, diciamo che è connaturata al politico, cioè il politico si stabilizza sempre sulla base di forme di neutralizzazione del conflitto effettivo. Però oggi questo avviene soprattutto in una fase nella quale non abbiamo una compartimentazione dell'ordine come quello che segnava l'inizio della politica, cioè la costituzione del politico in Grecia è una costituzione appunto in base alla quale il demos non è il demos, cioè è un'elite, vi è una discriminazione sia orizzontale che verticale, orizzontale rispetto alle donne e agli cristiani, verticale rispetto agli stranieri, verticale rispetto agli stranieri, come voi sapete gli storici antichi che hanno lavorato nel corso degli ultimi 30-40 anni in modo straordinario, con accesso alle fonti che non si poteva avere prima, sono arrivati alla conclusione, Luciano Canfora e vari altri, eccetera, che il sistema, appunto la grande civiltà greca delle polis, non crolla perché arriva il terribile Filippo di Macedonia e fa il conquistatore, ma perché si era indebolito per non avere mai contemplato il problema del cambio energetico dovuto all'apertura dei confini della cittadinanza. Cioè un debacle, uno spartano che andasse ad Atene veniva colto perché parlava greco, ma non poteva mai ricevere la cittadinanza, non avrebbe mai potuto avere la cittadinanza. E lì è il problema fondamentale, tra parentesi si fa la differenza poi riguardo al logos, partecipazione al logos tra le donne e gli cristiani. Le donne comprendono il logos, ma ne colgono l'aspetto della responsabilità e l'aspetto emotivo e della responsabilità. Ci ha ricamato su moltissimo Magda Nussbaum, secondo me con tutti i risultati, quasi con una involontaria apologetica della ghettizzazione delle donne. E gli schiavi invece comprendono il logos soltanto in termini automatici, comprendono la meccanica del logos e seguono i comandi, sono in grado di eseguire i comandi e basta, no? Mentre le donne lo comprendono, si responsabilizzano attraverso il logos, decolgono l'aspetto della condivisione emotiva e emozionale, attendono alla oeconomia, cioè quindi all'amministrazione della casa, non hanno la capacità di partecipare del logos pienamente, non sono in grado di argomentare, questo è il punto fondamentale. Tematica che giunge per l'appunto fino a Habermas, appunto questa tematica. Oggi naturalmente il fenomeno è divenuto ancora più grave, perché noi abbiamo non soltanto una retorica dei diritti umani, che è una retorica globale, ma perché questa retorica camuffa la realtà della polarizzazione, che è presente nel mondo globalizzato. Intendo polarizzazione, intendo quello che dicono alcuni economisti molto bravi, anche americani, anche statunitensi, cioè che la globalizzazione è un fenomeno che procede in modo tale che la forbice tra chi ha e chi non ha salario, e i ricchi diventano sempre più ricchi, poi tanto più che sono sempre più poveri, le regioni sempre più ricche, appunto più ricche sempre più ricche, quelle più povere sempre più povere. Quindi questa polarizzazione in realtà è dissimulata da una serie di conflitti fenomenici che proliferano e che vengono enfatizzati dal sistema dell'informazione, che non è più un sistema di manipolazione, cioè intanto vengono, diciamo, convogliati all'interno di un discorso che enfatizza forme di conflitto, come per esempio il conflitto identitario. Io ho parlato del conflitto identitario come fattore di violenza inutile nel mondo formalizzato, prima che ne parlasse, se ne date in un senso amato nel libretto Identità e Violenza. Solo che io rispetto a Senna avevo un altro obiettivo, lui si limitava a quello. Io dico unicamente che le lotte tra i fondamentalismi ci permettono di occultare un conflitto che è il conflitto tra il 20% del genere umano che si arricchisce sempre di più con la globalizzazione e l'80% del genere umano che si impoverisce sempre di più. E quindi ed è tutto evidente che io da lì la proiezione, come dire, ragionevole è che i contrasti, le contraddizioni arriveranno al pettine nel giro di non molto tempo, se ha un senso, non sono un profeta, ma nel giro di 2-3 anni, secondo me, l'Europa sarà un continente di conflitto e quando la Cina comincerà a presentare una parte del conto agli Stati Uniti, gli Stati Uniti si troveranno in una situazione molto simile a quella dell'Europa e sarà anche gli Stati Uniti diverranno sicuramente un paese attraversato da conflittualità nuove. E quindi bisogna, secondo me, anche diciamo, ecco, sapere verso dove si va. Problema del quale linguaggio l'intesa, ecco qui sono d'accordissimo ovviamente con quello che diceva prima Paolo, io no, nel senso che sono d'accordo con quello che io stesso ho scritto, insomma, anche anni fa nella critica Habermas, cioè non c'è una vocazione all'intesa, non c'è una vocazione all'intesa da parte del linguaggio, e, anzi il linguaggio è il problema, appunto il linguaggio è il terreno di scontro e se vogliamo all'interno di un discorso che coinvolge il linguaggio, e qui rispondo ad alcune domande che sono state poste, la cifra del comune per me è più il malinteso, cioè la cifra del comune è più il malinteso che non l'intesa, cioè la vera spia del linguaggio, cioè dove si può costruire un progetto politico a partire dalla priori del linguaggio, da quello che Paolo chiamava l'uno che abbiamo alle spalle, che è la condizione di pensabilità della molteplicità dei mondi, delle forme di vita e tutto quanto. Tutto questo, diciamo, cioè il momento saliente del politico non è l'intesa, ma il malinteso. Qui io ho scritto cose prima che Ranzier appunto elaborasse la sua idea lo dico non per ragioni di, diciamo, per mettere i puntini su lei, ma perché naturalmente non mi piace fare dei discorsi non miei. Poi con Ranzier si potrà anche discutere. Il mio modo di intendere il malinteso è diversissimo da come intende lui il disaccordo. Diversissimo, però ha sicuramente alcuni momenti di intersezione. Ultimo aspetto, ecco, punto che mi mette in questione in maniera seria. Io continuo a mantenere l'idea dell'universale, ma è un termine sbagliato l'universale, lo uso tanto per intenderci, come morale provvisoria. So bene che l'universale non c'è più, che l'universo della modernità non c'è più, si potrebbe dire che l'universo, c'è l'uno e l'universo per altro. Io ritengo però che si deve alla fine uscire da un discorso anche foucaultiano intorno alla enfatizzazione delle dimensioni locali e che si debba andare verso una forma di universalismo della differenza, che lo chiamo universalismo, cioè la differenza come criterio di costruzione di uno spazio che va al di là dei locali, che unifica i locali in qualche modo. E questo è l'orizzonte di senso del reincantamento per me, orizzonte di senso. Questo orizzonte di senso è sicuramente post-statuale, va oltre la dimensione della statualità e somiglia molto alla formula machiavelliana, alla formula di Machiavelli, molto, che io trovo molto bella e che poi Spinoza ha valorizzato. Ottima è quella repubblica nella quale l'una potenza guarda l'altra, dove c'è una pluralità di potenze che si relazionano fra loro anche dentro un equilibrio dinamico conflittuale. Questo multilevel governance system mi convince molto di più che non invece l'idea ovviamente di un superstato globale, che secondo me sarebbe il ritorno all'inferno della modernità. E in questo modo io intendo quello che Paolo chiama istituzioni dell'esodo e via dicendo. Ecco, vi è un altro aspetto però del reincantamento della politica. La politica non c'è senza la costruzione di una narrativa, e questa narrativa, questa storia è legata alla capacità nostra di stabilire una relazione tra le generazioni. Tra le generazioni la relazione tra il rapporto intergenerazionale si è spezzato, in Occidente almeno. In Cina il discorso cambia. E guardate bene, quando dico relazione intergenerazionale non intendo assenza di conflitto. La mia generazione, che si è formata, come dicevo, negli anni intorno al 68, era violentemente polemica con i propri padri, ma il conflitto è un modo di relazionarsi, è un modo della relazione. Oggi invece c'è l'indifferenza, salvo la recessione, non qui ovviamente, ma c'è l'indifferenza tra le generazioni, e con l'indifferenza tra generazioni, con la cesura del rapporto tra le generazioni, anche conflittuale, la politica non può andare avanti. Io penso che da lì si debba ricostruire il discorso. Se ho capito la domanda, riguardava in qualche modo il problema dell'efficacia dei simboli. Allora, lì come sempre bisogna intendersi, perché il termine simbolo è uno di quelli che ha una tale quantità di significati, che io, per esempio, e tanti con me lo hanno eliminato dal lessico semiotico e generale concettuale. Mettere insieme Peirce e Lacan, per esempio, che è una cosa che è stata fatta diverse volte, è a mio avviso molto forzato, perché in realtà le catene di interpretanti di Peirce e quindi le catene di significanti di Lacan sono completamente opposte, perché sono significanti e hanno un significato, quindi quando parlavano di simbolo stavo parlando praticamente di due cose opposte. Saussure, per esempio, utilizzava il termine simbolo significato ancora, gli enti non hanno significato ancora, quindi. Ma questo non ci deve interessare, è un problema di terminologia. Più interessante è bene la questione dell'efficacia. Allora, anche lì bisogna in qualche modo intendersi. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Luisa Muraro all'inizio, quando diceva che quando anche gli enunciati costativi hanno un'efficacia, che è discutibile. E dunque la stessa differenza in fondo tra costativo e performativo pende oramai del tutto, perché se è nato, quindi esistono anche i performativi, adesso è assolutamente il contrario, adesso prende quasi tutto il performativo, non abbiamo nessuna difficoltà ad ammetterlo. L'efficacia ovviamente significa cose però completamente diverse, nel senso che si manifesta, si rivela su più possibili dimensioni, su cui secondo me si continua a fare un po' di confusione, nel senso che una cosa è l'efficacia cognitiva, quella dei teorici della comunicazione, che dicono che questa comunicazione è efficace perché è passata una certa quantità di informazioni, c'è qualcosa che ho capito, che per me è che non sapevo, eccetera. Tutt'altra cosa è l'efficacia del tipo pragmatico, cioè il cambiamento del mondo, il fatto che in qualche modo ci sia un atto linguistico che trasforma le relazioni soggettive e intersoggettive. Ma altra cosa ancora è l'efficacia di tipo passionale, per esempio emotivo. E infine c'è quella che, complicando ancora di più i problemi terminologici, uno come Levi-Strauss chiama efficacia simbolica, ma intendeva l'efficacia nel senso dell'efficacia somatica, corporea. Mi piaceva sempre lo stregone che aiuta a guarire la partoriente semplicemente cantando una certa canzone. Ora, è evidente che nelle pratiche sociali queste quattro dimensioni si mescolano, però il termine efficacia è, appunto, mette insieme quattro cose abbastanza diverse. È interessante vedere che si mescolino, a partire dal presupposto che stiamo parlando di cose abbastanza diverse. Quindi, secondo me, questo potrebbe aiutare. ancora di più che non è un'esigenza odierna, è uno stato comune, è uno stato normale del discorso politico. Il discorso politico si basa anche, certamente non soltanto, ma abbastanza sulla, come dire, appunto sui, è una specie di guerra ermeneutica, una specie di strategia interpretativa continua, cioè il politico lancia delle formule e poi ci sarà qualcuno che le riprende e qualcun altro che inizia a litigare col primo su che cosa significava. Quindi da questo punto di vista uno dei problemi della comunicazione, del discorso politico, è proprio quello, non è quello di capirsi, non capirsi e quant'altro, l'equivoco, il malintesto, eccetera, ma è anche quello del conflitto interpretativo. Cioè, l'esempio ovvio che si fa sempre è quello di un signore che forse è stato ucciso anche per questo, quando parlava di convergenze parallele, e che lo ha portato alla disavventura tragica che tutti conosciamo. E quando Aldo Moro disse convergenze parallele, si scatenò la furia interpretativa. Cosa voleva dire veramente? Non ha nessuna importanza cosa voleva dire veramente. Era, come dicevo prima, una mossa strategica all'interno di un conflitto politico che ha portato a quello che mi portava. Sono invece meno d'accordo sulle parole, cioè significazione sì, ma non per favore delle parole. Come dicevo prima, come ha detto benissimo Paolo Luno, la lingua non è un insieme di parole, è un sistema di differenze senza termini positivi. E le parole, per piacere, quando parliamo di lingua, lasciamole da parte, non ci riguardano. Se continuiamo a parlare e a pensare alle parole, siamo in una fase quantomeno presussuriana, quindi un po' indietro rispetto agli studi linguistici che sono venuti fuori. Vorrei approfittare, proprio per fare una, chiedere a Birno un chiarimento, su questa questione della lingua, su cui ovviamente sono perfettamente d'accordo, su questa questione del sistema di differenze senza termini positivi, che io credo sia una di quelle, come dire, verità su cui che ancora non sono state veramente comprese fino in fondo. Il fatto che appunto tutti continuiamo poi a parlare di parole è l'evidente dimostrazione che dopo 100 anni non si è entrati veramente dentro il sostegno. Ho un po' più di perplessità che però questo sistema di differenze sia storico e naturale insieme. Cioè, ed è la domanda, appunto, la richiesta di chiarimento. Cioè, la mia impressione è che la lingua, le lingue, siano sistemi di differenze pure senza termini positivi, ma non i linguaggi, cioè non il dato biologico. Il dato biologico è sostanza. Le lingue storiche, culturali, insomma, come vogliamo chiamarle, sono sistemi di differenze. Quindi, come risolviamo questo eventuale schiacciamento tra lingue e linguaggi? Chiaro che lì, secondo me, l'unica lettura possibile è conoscere. Sono gli anni '90, quindi si crea un problema. È chiaro che è tuttavia anche in questa relazione, che chi segue questi dibattiti sulla natura umana ha un rilievo indubbio, facoltà lingua, e capite che riprende un nodo cruciale, perché dire le due cose non possono essere sconnesse. Facoltà, a parte che facoltà è l'antico termine di una dispotenza, che mi tolgo nel dibattito sulla natura umana la cuglia di una dispotenza, di una potenza, cioè, ma poi è chiaro che lì c'è un polo biologico invariante, un polo biologico invariante, la facoltà, cioè la potenza di dire, la potenza di linguaggio che apre alla dimensione storica di quell'orientamento. Quindi, che voglio dire, riprodotto all'interno di un dibattito specifico, il peso della facoltà, il peso delle lingue, proprio quel cardine storico naturale che forse dovrebbe starci a cuore, per essere veramente storici e politici, senza immaginarci di essere, e senza essere creazioni di destino. Sull'uno, l'uno io diciamo in testa, adesso poi ho rinunciato in questa relazione anche sui comuni, come cultura retorica. Volevo dire solo una cosa brevissima, dopo un po' Paolo. Voglio solamente dare un'indicazione, non avendo trattato effettivamente il tema, agli autori che per me rappresentano un punto di riferimento. C'è appunto Ross che dice, quando sente parlare di socializzazione, vengono le bolle sulla pelle, che state dicendo? Esattamente il contrario, si sta in una dimensione immediatamente sovraindividuale, pre-individuale, dentro la quale poi si hanno processi di singolarizzazione, che descrive sotto il profilo linguistico e psicologico, o psicologico anche psicologistico, se accettate la stenografia, è particolarmente rilevante. Allora, questo passaggio da un nomi che non è la somma dell'io, quindi è un nome paradossale, all'io singolarizzato, è la quando ritorno ai problemi della filosofia teoretica, è il problema del principio di individuazione, però dentro un tessuto genetico linguistico che sono strutturato. Io penso che quella dimensione pre-individuale sia paragonabile in maniera non addimentosa, ma con qualche buon dato di fatto, a quello che Winnicott dice sui fenomeni transizionali, né io né tu, ma qualcosa che esiste solo tra noi, né interno né esterno, poi scusate le nostre parole, l'oggettività del senso, al limite, tanto per fare puntarla, come si dice, come puntarla in piacere, anche le cose che dice Frege sull'oggettività del senso, distinto dalle rappresentazioni psicologiche, e chi lo conosce, questo filosofo così rilevante, della seconda metà del Novecento francese, che ci interessa molto, il quale ha lavorato appositamente sull'essere pre-individuale, a partire dal quale si danno poi individuazioni, ma che in quanto tale non si risolve mai nell'individuato, che convive con il singolare, e questa quota non individuata che porta dentro di sé ciascun soggetto, il sì che accompagna ciascuno, è la base effettiva per lui dei collettivi. Della dimensione collettiva. Ecco, allora diciamo, vedete, questo comune è anche solo con questi autori di riferimento, per me è importantissimo questo sì preliminare, questo non è preliminare di Gosti. Berzon c'è qualcosa, Berzon che sta alle spalle di Gosti. No, Berzon secondo me è una posizione un po' comica di diffidenza nel punto di linguaggio che ha evitato farlo fare, però avevano tutti e due un motivo nobile per diffidare del linguaggio. L'egiziano di grandissima importanza filosofica, vale a dire salvaguardare il continuo rispetto al distinto. Nel linguaggio c'è un elemento di discretezza, però questo è il problema del 314, nel senso che si ricorda il numero razionale, è un problema squisitamente da egiziano che giustifica le pagine altrimenti imbarazzanti di persone sul linguaggio. L'ultima cosa che... No, una brevissima puntualizzazione. Io ho usato più volte il termine parole nel mio contributo, e le ho usate citando Foucault, le parole, le cose, e l'ho usata però quando ho detto che il potere desimbolizza il conflitto togliendogli la parola, che è un modo è un modo diverso di dire, ecco la cosa. No, c'è un problema però ancora, cioè ovviamente d'accordissimo col vostro, con le puntualizzazioni che avete fatto come semiologo, filosofo del linguaggio, eccetera. Però io che lavoro molto sulla, come dire, la potenza trainante di alcuni termini concetti, non posso fare a meno di riscontrare che il lavoro, per esempio, degli storici concettuali, quelli tedeschi in particolare, anche francesi, Koselleck, Brunner, eccetera, ha dimostrato che c'è una storia di alcune parole chiave che, anche decontestualizzate, finiscono per determinare costellazioni di esperienza nuove, proprio anche estrapolate dal contesto, anche, come dire, risemantizzate. Il termine rivoluzione è uno di questi. Il termine rivoluzione è uno di questi. Il termine rivoluzione. Nessuno adoperava il termine rivoluzione prima di Copernico, se non come appunto rivoluzione in senso astronomico-astrologico. Il termine rivoluzione a partire dal 600 comincia a giocare uno diverso, anche se Hobbes ci vetta molto col doppio senso quando, mi pare, nel Behemoth dice: "Hey, I have seen in this revolution a circular motion", no? Io ho visto in questa rivoluzione un movimento circolare da un re a un altro re, di ritorno a un punto di partenza. Però comunque, insomma, c'è un punto, c'è anche una storia delle parole che ovviamente non contraddice affatto quello che voi dite, ma che secondo me ha un significato molto rilevante. E che, ecco, altra cosa, la parola essere sta per uscire, è appena uscito il volume su una questione arcinota, ma che bene che se ne faccia il punto, che probabilmente larga parte della storia della metafisica in Occidente è condizionata dal fatto che noi appunto parliamo con l'operatore essere. Molte lingue non adoperano l'operatore essere. Questo naturalmente pone una serie di problemi seri anche riguardo alle questioni iniziali che voi avete posto per questa conclusione dei vostri seminari. Ciao. Penso che abbiamo finito, insomma, non credo. Cioè, no. Ma non so, altre domande? Grazie. Magari. Bene, spero che siete fatto una grandissima lavoro.